immagine già di. Adesso ti mando una cosa, ti faccio vedere una cosa, vedi se vai ancora. Non ho capito di Fugoso cosa è. E gli ho mandato un messaggio al tipo a vedere quanti watt erogava di Fugoso, un amplificatore, e se lo ritrovo te lo mando a vedere. E comunque vendutola, però ti mando la foto. E mi dici a vedere questo amplificatore, che tipo di amplificatore è. Manda. E ce l'ho mandato, l'ha venduto 120 euro. E lo vedi, questo è un 5 valvole, questo era buono, questo qua era un kilowatt. C'è anche il foglio dello spaccato di tutti i valvoli. Sì, questo è un 5 kilowatt, è un kilowatt, perché ha 4 valvole e una pilotta. Quanto l'ha venduto? 120 euro, era l'asta. Ma su eBay? Ehi, capo, mi è uscito ieri, infatti la bandegna, che ci sono le valvole dentro su voi. Già vedi? SBAM, sì, lì te la vedo, eh. Un po' vecchiotto, RM modello 450, linea amplifier 27 MHz, sì, e un kilowatt era. A Puglia, quindi un kilowatt, 1000 watt. Sì. Oh, bello era questo amplificatore. E ogni tanto li mettono e non lo so, adesso mi è uscito così l'altro giorno, poi non lo stavo seguendo, se no era 110 euro, deve essere gliel'ha rilanciato qualcuno, 120 euro ed era spedizione gratis. Se era avuto dubbiliamme, se è un kilowatt a Puglia, un ghiso a Pompani. Ma sto guardando i componenti elettrici del coso che mi hai mandato già. L'amplificatore è tutto quanto già frusagliato di la Magnasiro. No, da sapigli. E è tutto quanto già frusagliato l'amplificatore. No, noi usi. Da sa, condensatori cambiati, butti condensatori, i tifosi, da sapigli. E vabbè, ma a volte già li mettono buoni. Sì, qua. C'è il c'è il condensatore variabile che è tutto storto, tutto, le molle tutte quante toccate, no, lascia. Chi era una vutitura, veta, eh? Minimo era tutto cacciavitato, era, no, vedi? Sì, era tutto riparato, tutto fatto, qua. No. Non era cosa da prendere, capito, gna? Ui, a commentare gli amplificatori dritto. Da sapigli. Dalla fotografia si vede anche un condensatore aperto. Qua, condensatore gonfio. Cioè, si vede proprio dalla volta, ma io c'è fuori di capo. 100 volt, 450, 100 UF, 450 volt. 4 condensatori, uno a biscio. Ah, tu, chissà, galera, lo scienziato pazzo di chi vi vende il terrorismo. Bisogna stare attenti, magari ha pubblicato la foto dell'interno per far vedere che c'era roba da sostituire, dai. Magari l'ha preso qualcuno che si arrangiava, però fare gli amplificatori lineari, già, le usi. Gli amplificatori valvolari bisogna sapere dove mettere le mani, perché altrimenti ci sono correnti qua in questi amplificatori, soprattutto con questo tipo di condensatori, si invaglia appena, no, che vi poni le sacchessarie, ma ci sono correnti mortali, correnti che, guarda, sono assurde, anche 800 volt girano attorno a questi amplificatori, se migliori cosa di guilti vi rimane secco, eh. E no, tensionare davanti. Sì, hanno una tensione allucinante. No, io ne avevo comprato uno da internet, l'ho pagato 120 euro lo stesso, un kilowatt e mezzo tirava un kilowatt e mezzo ed era un amplificatore militare, un amplificatore per l'HF, andava anche 160 metri e tirava un kilowatt in 160 metri, era un mostro, mano, bizzanti. l'ho acceso, ho guardato, ho fatto e funzionava bene, però ci voleva un relè esterno, no? L'avevano venduto per quello, perché era di un radioamatore e funzionava con quelle radio, vecchie, che in pratica ogni volta che tu andavi in trasmissione dovevi prendere e fare movimenti, cioè sollevare una leva, poi cioè, voleva questo relè esterno che non trovavano, quindi bisognava costruire un relè oppure trovare un relè che andava bene per quell'amplificatore. L'ho rivenduto quanto l'ho pagato a questo qua, che mi ha detto io ho il relè, quindi lo prendo, e mi ha mandato il video su Messenger. Un kilowatt e mezzo tirava in 40 metri, un kilowatt e mezzo in 40 funzionante, mi ha detto guarda, è l'amplificatore perfetto, grazie. Perché gli avevo rifatto un po' di roba che aveva da sistemare, ed è un amplificatore fatto dalla, si chiama, era una ditta italiana, dalla Ducati Elettronica, e faceva apparecchiature a uso militare. E hai quegli apparecchi Ducati Elettronica, sono buoni, anche le moto hanno i campi magnetici fatti da Ducati Elettronica. Esatto, è tutta la stessa cosa. E negli anni 80 facevano gli amplificatori per uso militare, per uso navale, e niente, questo qua era un vecchio radioamatore che è venuto a mancare, i parenti l'hanno venduto. Era a vedere a 120 euro, avevano messo con tanta roba, tanta attrezzatura, che io ho detto non mi prendo l'amplificatore, che se riesco lo uso per la 27. E 27 MHz qua in 11 metri tirava un kilowatt e mezzo, un kilo, perché poi mi hanno dato il video di tutte quante le parti in 10 metri e tirava un kilowatt e mezzo, malato, di 160 metri un kilowatt. C'aveva 8 valvole più una pilota, malato. Erano 8 valvole più una pilota. E se nuda era, come serpiotta, tutto svarvolato. Sì, era, però io non ne potevo fare uso perché non avevo quel relè, dovevo costruirmi un relè, cercare da. Infatti ho detto no, se sbagli qualcosa ci sono correnti allucinanti, con l'amplificatore, quindi ho detto no. L'ho venduto e quanto ho pagato? 120 euro l'avevo venduto. Come gli è arrivato, mi ha mandato il video, mi ha detto guarda ti faccio vedere questa amplificazione. Infatti come gli è arrivato mi ha chiamato, mi ha ringraziato, l'amplificatore è bello, e poi mi ha dato un video del funzionamento. Allora anche canale che stecchia Bangiolare Maria, Italia ne va Ralma, ne va Carisciotto. In 10 metri 1500 watt, in 160 metri che di lì ci vuole attrezzatura come si deve, e un kilowatt, 900 watt, dai, un kilowatt comunque. Mi dava fatto di pilotaggio, aveva l'accordatore, l'antenna, lui aveva tutto, aveva ogni condensatore variabile dentro, faceva paura, e i condensatori suoi erano lo stesso grandi, originali, bello, però io non potevo usarlo e per tenermelo pagosa, fa niente. Quindi l'avevo venduto e lo sta ancora utilizzando. Se lo utilizzava, lo utilizza è meglio, almeno sai che lo usa e sei contento burbaghissimo. Sì, ma infatti, poi mi aveva detto il suo nominativo, ogni tanto io lo sento in 40 metri, quando parlo, ed è con quell'amplificatore, perché lui lo dice, e con quell'amplificatore e spinge, non già, di quella roba fatta di un tempo, che quella roba che era stata costruita un tempo e funziona sempre. Io mi sto facendo un alimentatore qua, lo stesso che degli anni 80, un opto, un 40 ampere grosso, e ho misurato il ponte diodi, perché ha due ponti diodi, sono tutti e due buoni, adesso sicuramente c'è qualcosa in questo transistor di questi transistor, qualcosa in corto, però visto che lo posso fare pure piano piano, prendo tutte le misure, tutte le cose e me lo riparo io piano piano, ma già, a tempo perso. Beh, perché almeno se lo sai fare te lo fai un pezzetto alla volta, senza fretta, e poi vedi che esce bello, perfetto. Sì, sì, sì. Poi i pezzi di questo ambientatore qua li trovi, forse ce l'ho anche io, i transistor qua, quindi è roba che è reperibile anche, insomma c'è anche Fusaro a Sassari questa componentistica. E va bene, va bene. Adesso vedo un po'. Adesso devo fare il cavo d'alimentazione nuovo. Ma vabbè, tu ci faccio un filo a maschetta nuovo, o se no gli metto un cavo di quelli seri e gli prendo una presa. Eia, infatti andava, se no gli buono un filo di brancia. Stavo dicendo, Gavi, ma quello che c'era salendo al quadrato, cos'era? La GBC, quello dove c'era la pizzeria e la fermata del tram. Sempre perché sono i gusti. E chi vi vuole cavatori per entrare? Cazzo, mi ricordo un giorno sono andato, non mi ricordo cosa dovevo comprare. Cacca pizzeria, cacca valvolina, cacca resistenza. Cazzo, non aveva poco un casino in attasso banco. La gente, guarda, mi serve... No, non ne ho, non lo so, sto facendo vedere la Biartena, un'antenna di televisione la Biartena, ed era tutto canto a tontonato, visto. No, è vero, no? Chissà la roba che ha dentro quel gamasino lì, o cosa è, che su un negozio va a parare roba a cattaccada, che non sa neanche lui cosa va dentro. E che tu mi hai visto sotto? Ah, pure sotto c'ha tipo il cantinato di mudare il gamarone mano sotto con la carava. I cavoli. Però guarda che quello lì se lo mette in ordine e vende un bel. E che Edu che è disgraziato, mi pare che è diventato un rimbambito. Dai, dai. Chi si va a vero roba in chimica, se ti può andare in forruggiati, ci vuole un ragazzo che ha contanti, cioè che ha soldi, che vuole investire, gli mette i soldi sulla, gli fa un bel bonifico, un bel assegno, e dice, ascolta, a me mi serve, io vorrei questo. Però a tanto pare non è da te ne manco. Non lo so già. Io non lo so come ho messo quello lì, però... Insomma di una bottiglia. Io non ho capito di GBC come fa ancora a lasciargli le concessioni, l'autorizzazione, il franchising per vendere a questo qua. Sarà un affare di Sabutria beta da pigliare e si chiama e fa l'andà con roba, ma ne manco per arrivare a chi non vede più coso, però. Di lì rivenditante NSAT, TVSAT e componentistica, la gente viene. Vai, che quello lì c'ha solo la insegna, va GBC o cosa è, però come hai detto tu, quello lì il negozio se lo sistemano o se lo prende un altro in mano che lo mette a posto. Quel negozio vende un bel, perché sembra così, ma gente con il baracchino, i curigosi, anche l'hi-fi della macchina, la radio, a prendere tipo valvoline, a aggiustare gli amplificatori delle macchine, quando ci vogliono i finali nuovi, eccetera. Era un bel fornito, era lui che non... era Urugabu e mille assetto biubari. E quindi non riusciva magari a seguire bene tutta la cosa, però molte volte entrava la gente, io ti parlo tipo di 10 anni fa e più o meno, che entrava a chiedergli qualcosa, se era tipo un altro isolante, che cose così, vira via subito, ma se gli chiedevi qualcosa che non sapevi la sigla, o magari gli spiegavi, no, non ne bigliava a gabbo e diceva no, non ne ho, non ne ho, non ne ho. parlare di Desia da Mercuni, da Fusaro. Tutto quanto è copiato io, insomma. Cosa vuoi ti dica? Purtroppo è così. Purtroppo è così. Quel negozio poteva essere d'oro in Chivo. Ci ha avuto tre appudiarsi e d'oro in Chivo. Peggio Baetto, cosa vuoi ti dica? Cosa vuoi ti dica già, Peggio Baetto? Di lì dei ragazzi potevano prenderlo quel negozio e lavorare e vivere anche due famiglie bene da quel negozio lì. Invece no, non è dati, è tanto magnatino. Infatti, poi ce n'era uno vicino a Santa Maria. Hai visto dove c'è tipo il rifornitore, diciamo, Santa Maria, Ivi, basta che c'è la fontana, nella viuzza però, quella dove c'è il meccanico elettrauto Bosch, all'inizio della stradina lì, che non lo so se si può entrare da dove c'è il rifornitore, oppure se è un pezzettino di strada a senso unico, ne passa il dramma, va. Lì c'era un negozietto stesso che vendeva roba, per, si può dire, antenne, baracchini, figosi così, transistor, valvoline, e adesso non lo so però se c'è, perché avevo comprato lì, non mi ricordo, due finali per un amplificatore Lenco mi pare, 150 più 150, che ce l'avevo in macchina, si era accoppiato da una via, che lo subwoofer era andato in corto il coso del mono, praticamente si erano attaccati i rifili e mi ha bruciato quella linea di quel canale e niente, poi gliel'ho sostituiti, ce li avevo originali, poi al bagaggi c'erano 10 euro tutte e due i bagaggi, le ho messi e funzionavano bene ed era staccata la macchina. Poi deve essere come ha fatto Umido, che ormai era sempre in campagna, che ho acceso lo stereo, che sta contro la nuda, era sicuro da accoppiare. Devi chiamare qua Zara, e vende ancora autoparlanti, però per uso professionale, capito? E già deve essere quello. Boh, non lo so, io di altri di lì non l'ho conosciuto, invece Corte Santa Maria di lì non ne ho conosciuto altri. No, quello lì deve essere che era tra l'officina elettrauto Bosch e l'inizio della strada, diciamo, da dove si vede il riconnettore dall'altra parte. Solo quello c'era il negozietto lì. L'altro invece era dove c'è Bosco Bendinelli dietro, che non mi ricordo come si chiamava quello lì, che c'era quel ragazzo cicciottello con gli occhiali. Ma te sei visto, non l'ho conosciuto. E mi sembra quel ragazzo aveva anche una Clio, correva una Clio 16 valvole bianca, tutto quanto fuso, rimambito era, veniva stazioni saldanti, interruttori, cioè ce l'aveva un po' di cosa. E infatti quando mi vedeva mi diceva, ma viaggi, con la macchina non stiamo facendo, dico nulla, gasosa, consumando i copertoni e boh, e benzina. Ma che? Frazendo i gomme, e facendo i semiassi e sgommendo. Beh, eppure ti dico che semiassi nella Megane non ne ho mai rotto né cambiato. L'ultima volta che ho cambiato i semiassi, perché gli ho messo le pinze e i dischi da 2,59 della Scenic, che erano più grandi. Allora ho dovuto mettere i semiassi della Scenic, che avevano la stessa lunghezza, però erano più grossi, capito? Il tripolo, come si chiama, la crociera, quella era uguale, però per mettere quei dischi là dovevo mettere anche i semiassi, perché il cuscinetto del mozzetto disco per la pinza era più grosso, il mille righe del giunto mocinetico. E quindi gli ho messo quelli lì, e ci sono quelli sotto. Poi c'è il ponte posteriore della Renault Grand Tour, sempre del tipo di quel modello, che era la Station Wagon, quindi c'è il freni a disco anche posteriori, con tutto il sistema che era uguale. Ho messo i capi del freno a mano dell'altra, quindi ho quattro freni a disco, da cui va più la bocchetta della benzina a sparco, e insomma da quando l'avevo modificata era micidiale. Mozzetto Simoni Racing cromato, sterzo a calice Momo, sedili sportivi, e mi divertivo questa macchina, la casuravo, consumavo benzina, gomme, ammortizzatori, però grazie a lui sempre un mancantarillo. L'ho rovinata due volte, nel senso che una volta l'ho rotta a Sennori, ho fatto il curvone di su alla scala, gas a tutto full gas, e c'era una macchina al tabacchino, Gavi, ferma con gli abbaglianti accesi. Io quando sono entrato a fare il curvone pensavo che era un'altra macchina scendendo veloce con gli abbaglianti accesi, quindi ho mollato l'acceleratore e si è messa di traverso e si stava puntando tipo con la pizzeria che c'è lì. Allora cosa ho fatto? Gli ho messo le ruote in controsterzo e ho frenato, quindi se n'è andata alla parte opposta. Però cazzo, la vini la giubilata in pieno questa macchina con i parassisi e avevo rotto il muso dal lato guida, cacche piccumiglia in lire, 5 milioni di lire di danno più facile, come si dice, porco mondo, cazzo. Sono salito a Sassari alla Renault senza paraurti e senza parafango davanti, con il cofano ammarcato, e mi ha detto Ted che chiude la Renault. Sono rimasto, cosa è successo? Oggi te un buffone mi sei culto, non lo vedi che ha giusto la giazzuppada? Per farmi un preventivo, no, a sistemare la RAP, che io la sistemavo sempre. Alla fine ci ascolta, fa una cosa, futti dinni. Oh, dobbiamo togliere il motore, dobbiamo guardare qui, sto scendendo, invece l'ho portata a Sennori dal carrozziere Palmetti, Pilo e Palmetti, che li conoscevo da tanto, e niente, con 2 milioni e mezzo mi avevano rifatto tutto il muso davanti, 2 milioni e 500 mila lire. Poi avevo recuperato una presa d'aria di 112 Abarth e quella mi aveva fatto il cofano il mio amico Vincenzo Monti di Sosso, che era carrozziere, aveva una Y10 bianca con il cerchiastella, mezzo stempiato era, tutto fuso era Vincenzo. E niente, e poi quello lì l'avevo rotto, non è che l'ho rotto, ce l'ho in cortile, ce l'ho, perché ne avevo messo uno normale senza prese d'aria, dopo per essere più semplice, da più elegante e sportivo come adesso, se no già ce l'ho sempre quello là. E niente, comunque con quella macchina mi sono divertito un bel, con quella e col 127. Che fine ha fatto quella megancia? In campagna da babbo è sotto la, come si dice, ha fatto una specie di tettuia in legno, e c'è la Megane, poi ci sono i due ciao, da voi cosa avesso tenghivi, la regna, e niente, ed è in campagna, è parcheggiato, sei tutta canta praticamente. Ah, quindi non l'avevi venduta tu la macchina? Io pensavo che l'avevi venduta tu la macchina, già. No, ce l'ho sempre, la Megane Cocci 1996. Coupé, l'avevo fatta verde della Volkswagen Bora, è quello lì, un verde Volkswagen quello lì, e niente, ce l'ho in campagna, c'è circhi Borbet da 17, canale 9, le marmitte doppie Ragazon a destra e a sinistra, con lo scarico da 80 mi pare, non erano grossi, da 80. Poi mi avevo fatto il tubo della marmitta in acciaio dritto, e niente, gli avevo rifatto la fodera dei sedili, perché prima era grigio e rossi, e poi li avevo fatti neri e verdi, perché avevo fatto rivestire i sedili nuovi, quelli sparco che avevo, più i sedili originali di dietro. Ha detto, infatti ogni tanto a Davide gli dico, quando fai in campagna, gatto, buone le moto, gatto, fa le altre video, mi domando. Ma devo prendere la benzina perché non ce n'è, adesso si è evaporata. E la GT, allora dai, pone la benzina, ma con la bomba non va a funzionare. si è secca, la Giudizio sarà tutta incollata a questa benzina. Però ricambi, a livello di ricambi non mi mancavano mai. Però va poco d'ora da vicino alla Rittili, cosa c'è? Da Sarda Rottami, da Carlisi. Non aveva ne boghi, megane, 5 porte, station wagon, coupé non ne avevano. Però basta che io sapevo la sigla del mio motore, che era 702, 703, non mi ricordo che altra sigla aveva. E niente, quindi recuperavo sempre qualche cosa. E nulla, e ce l'ho sempre, sia quella al 127, tutti viaggio. Ma quindi l'avevi verniciata, non l'avevi lasciata rossa quella macchina lì? Io mi ricordo che era rossa quella macchina. Sì, Gavi, era rossa, poi l'ho fatta verde metallizzata, non lo so se l'hai vista nelle foto del mio profilo Facebook, che è massiccia, con i paraurti della... aspetta, come sono i paraurti della Iberard Design, dalla Spagna avevo preso il kit, 900 euro, c'erano paraurti anteriori, paraurti anteriori, paraurti posteriori, sottoporta, allargamenti fiancata posteriori e allargamenti fiancata anteriori, quindi due parafanghi anteriori e due parafanghi posteriori. Certo, quando abbiamo piazzata era pura di gabbo, era rossa e bianca con tutti i pezzi. Una volta che poi l'abbiamo piazzata, l'abbiamo rismontata e poi l'abbiamo preparata per verniciare, ma qualche 6 mesi avevamo buca a farla mia, che era inventato un garruttese, l'amico mio garruttese era inventato, che poi è quello che ci ho litigato quando gli ho portato a fare la 127, che gli ho portato tutti i lamierati nuovi, sportelli, muso, coda, cappotta, e più ce n'è, oiuia. E niente, mi aveva abbigliato praticamente, aveva voluto 4.000 euro che gliel'ho dato in due volte, perché la prima volta mi ha detto babbo ha detto che ci sono delle spese, se mi dai la metà. L'avevano già iniziata la macchina, avevano già fatto tutta la coda dietro perché me l'avevano tamponata, e poi hanno fatto il resto, il muso e la capota. E quando l'ho ritirata non ti dico a chi. Praticamente il motore non ce n'era, che me l'avevano fatto togliere per verniciarla, dicevo ci va meglio, invece hanno fatto una bucaria. Ed è poi Davide piano piano mi ha messo il motore di nuovo, però non l'ha mai venita di piazzare. E adesso è tornata a frase gani, ma è peggio di quando te l'hai buttata in officina. Affannato. Mi piaceva perché era targata Sassari, Surba Isso. E poi era un'utilitaria che consumava poco e nulla, io si buonio di zero di benzina e salgo sempre andando. Certo, se mi mettevo a stracciare e accelerare consumava, chi come tutte le macchine, ma se avevi una guida tranquilla andavi da qualsiasi parte. Io sono andato da qualsiasi parte in 127, a tutto bella, da Buenisimo andati a Perfugas, Alghero, a Bosa, a Dugnaruga andavo in 127, basta che mi facevo il calcolo della benzina a una velocità tranquilla senza trabattarla, chissà macchina andava a Dugnaruga. 127 irani, 127 irani, cos'era, 900 o 1050 quella tua? No, la mia era, praticamente era, c'aveva il motore del 112 Abarth, perché era siglato A, 112, ed era il 58 HP, praticamente era il 70 HP prima serie, quindi era 1000, era 1000, però era la prima versione del 70 HP, perché c'è il tappo punterie con la scritta Abarth, che avevo tolto io da un 112 vecchio frasico da Antonio il talebano, lo chiamavo io Antonio Niedunu, che aveva una rimessa di macchine vecchie lì, di buttangari, e poi ne aveva una in Sassari, ogni tanto alla nasia ne riscutravano in tutto per cosa ambientale. E recuperavo i pezzi da questo ragazzo carrozziere che più o meno aveva la mia età, forse era un po' più grande, il padre era di Uzi, lo guidava il pullman. E niente, e quando mi servivano questi io scendevo lì, venivano i bobo, un pacco di giucchi era a me. Ti senti, trattavano i bei gincani, le uno, quindi sono motori riusciti, già. Sono motori riusciti, devo avere una banda in casa, mille fire, mia treno. Cavolo, la mille fire camminami. E vanno anche bene quei motori, perché io, allora, prima di prendere la 500 Abarth, cioè avevo la 500 Suite, ed era 900, aveva, no, il pizzo a manovella aveva. Invece poi la mia amica di Signori aveva una 600 Celestina 1100 multipoint iniezione e l'ha sfasciata nella curva di San Camillo un giorno che ha piovuto di carnevale. Si è entrata in quarta, si è girata la macchina in cui va, arrivi di un abbunto e verrà pigliata dal centro lato passeggero, verrà pigliata in lui. E io ho detto cavoli. E niente, un giorno mi ha chiamato e mi ha detto devo buttare la macchina, babbo mi sta assillando a casa che è sempre nel giardino, ogni tanto ne tira un pezzo, se, come facciamo? E ha detto mi aspetta che chiamo un amico mio con caratteristiche. Ci chiama da Ghisto Antonio Nieddu, si chiama, è venuto col caratteristiche. Lui è venuto, Antonio e Marco, non mi ricordo come si chiama, Occimarino è, Sassarese. Sono venuti con caratteristiche, hanno caricato la macchina nella campagna di questa mia amica di Antonella Signori e me l'hanno portata giù in campagna da babbo, da giù da Duridinà, Cantuburiani, 30 euro e niente, l'ho tutta smontata e mi ho rimpiazzato la 500 mia, infatti la chiamavo 550 anni, perché era 1100, multipoint, cruscotto della 600, tutti gli interni neri e blu della 600, marmitta tutta completa della 600. L'unica cosa che ho dovuto sostituire era la pompa galleggiante del serbatoio, perché l'impianto della 500 era diverso come spinetta. Però volendo potevo lasciare quella e cambiare la spinetta direttamente. E invece io l'ho messo tutto completo, ho messo tutto l'impianto elettrico della 600 con tutti i componenti e allora quando l'ho piazzata quel motore che mi aveva dato quella mia amica aveva 70.000 km e 68.000 km e alla fine l'ho data che aveva 215.000 km e non ho mai sostituito le candele originali di quel motore, le toglievo magari quando facevo il cambio d'olio, le controllavo una spazzolatina con la spazzola e le misuravo con lo stessimetro, va bene, era scritta Fiat che si grandisce. Guarda, quella macchina era un demonio, a chi fazia ZTV di fazia 180 fazia, in quinta la 500 modello 600, là. Con quel motore lì sono sceso allora a Cagliari due volte, sono sceso e salito, allora però era, mi sembra che era in lire, forse avevo speso 35.000 lire di benzina, salire e scendere da Cagliari. Sono andato all'ospedale Binaghi che dovevo fare una richiesta tipo per iscrivermi alla banca del midollo, e sono guardato in sticuzzente, ma sono sceso con una tranquillità a Gavi, che era buono, sembrava una macchinetta nuova, silenziosa, camminava bene. L'unico problema era che c'avevi i finestrini tipo un po' a metà e quindi la turbolenza del vento sta puntunava. Però guarda, una macchinetta, quella di nuovo, su cosa tutto mi ho girato con quella macchinetta. Quelli sono motori già che se tieni bene, che se non le strappati, non li fai, che praticamente ti pigli e fai il giabitone, fai un coso, tipo la peli. Però sono motori che se tu non li strappati, non li fai, non li prendi, li fai scaldare quando è freddo, la mattina prima di partire la fai scaldare bene, sono motori che non ti lasceranno mai a piedi. ma come in tutte le cose, come in tutte le cose, se tu pigli il tuo manzano, pigli e paci, pigli buoni motti e paci, a palla, e la stavo tanto ne vengo. Quanti deve che pigliano, infatti, appena poi c'è molto, ma adesso io la macchina lascio almeno 10 minuti molto, prima di partire, no? E poi vado piano, non mi interessa nulla. E tanto non vede, c'è poco da camminare. Io con 1009 multijet mi trovo molto bene. Non consuma nuda, l'altra volta abbiamo portato la bambina a vedere, io la uso anche per lavoro, cioè per lavoro, per andare a vedere lavori, per... Dai, la usiamo e metto sempre l'originale, tutta roba originale quando faccio italiani. Da poco ho fatto la distribuzione e gli ho messo roba buona. Non la giubbo roba laico, roba, infatti il meccanico me l'ha fatta, mi ha detto no, metti roba buona, metti roba e infatti abbiamo comprato roba come si deve, mi ha fatto un ottimo lavoro, fatto a regola d'arte. Ho cambiato anche la pulizia, mi ha fatto cambiare anche la pulizia dell'albero motore, perché se vuole cambiare, ti consiglio di cambiarla. Da che si infascia la gomma che va in mezzo a diciamo tipo parastrappo, fa, non lo so per cosa serva, ti va in mezzo alla distribuzione e la rompi. Infatti no, ciambara, infatti me l'ha cambiata a posto. Sono motori belli, i motori Fiat sono motori belli, però devi tenerli bene. Sì, quella è la pulizia, c'è il coso antifibrante nell'albero motore. No, sono allora quei motori lì, 1009, qui 1100 fire, ma anche il 1400 turbo, se lo tratti bene, sono dei motori bombetta, insomma, se come dici tu lo fai scaldare come la 500.000 vecchia. Io la mettevo, quando mamma non riusciva a fare la spesa, la mettevo in moto, si sentiva che si azionava tipo l'aria automatica e dopo tipo un minuto, due minuti si staccava e allora partiva, perché gli dicevo falla scaldare sempre un po', sia quando arrivi e quando parti e quando arrivi non spegnerla mai subito, lasciala almeno un minuto e poi la spegni, a prescindere che sia magari la 500, Abarth oppure la Clio oppure il TVM, e quindi gli ho sempre detto di fare così. E niente, sono motori che durano, perché cioè non è che è tanta strabazzata cosa, no? Magari quando è più pizzino la devi strabazzare, ma una volta che poi la usi normale e che funziona bene, sì, la devi strabazzare appena la tratti, la giri, la fai, però a livello di manutenzione motore era sempre a posto. Praticamente gli ho cambiato una volta i giunti omocinetici a quella tipo 500-600, perché sai quando tipo erano già un po' consumati, poi me la usava mamma andare a fare la spesa, la usava solo lì, quindi magari sotto offerto parcheggendo e fendi, quindi faceva tra. E allora avevo comprato i giunti omocinetici e glieli avevamo messi Davide, ho preso i giunti omocinetici e il radiatore davanti nuovo che è uguale a quello della 600. Ho pagato in tutto 48 euro tra giunti omocinetici e il radiatore da eBay. Poi l'ho venduta a una ragazza quando mi sono preso la 500 Abarth, l'ha usata una settimana salendo a Santos Sarì senza controllare mai né liquido né guido né l'acqua e là giù tutta la difesa. E la macchina era nuova, aveva anche i cerchi della 500 Sporting. Sì, infatti se non li controlli niente alla macchina, siamo la pedi, può essere la macchina più bella che vuoi, la macchina, io li faccio sempre tagliando quelle robe lì ogni 15.000 km, posa a terra e cambiando, perché altrimenti è un disastro, comincia a fasciare turbini, comincia a fare danni che non ne avviene più. Ehi, è vero, perché allora io mi ricordo Allora, quando io mi cambiavo l'olio nella Megane, lo cambiavo ogni 10-15.000 km e gli mettevo sempre l'Elf 10-40 oppure 15-40. Quello 10-40 era sintetico e quello 15-40 era semisintetico. Però notavo una cosa, che quando mettevo il 10-40 sintetico era un po' più fluida, aveva magari appena appena più di sprint, no? Però quando l'olio poi scaldava, giravi il trabassato un po', sembrava come che la macchina non tirava, sembrava tipo un po', come si dice, frenata a baria. E allora dici, siamo quasi a 13.000-12.000 km, ma dici no, Ruzzo non esiste più. E infatti pure mettevo l'olio nuovo, dopo che facevo tipo tagliando, filtro, olio, eccetera, eccetera, la facevo scaldare, entravo in tempera, facevo un girettino e la usavo tipo un paio di giorni normale, così. La bugna ha dato il cu di un'altra strada. E si sentiva la progressione quando c'è l'olio nuovo e buono. Olio candele, c'aveva le candele a tre punte come la 2016 valvole. E il motore mio era un KSTM 202-203, e a differenza della Clio 1004 Sport il mio era a corsa alta, mentre la Clio era invece a corsa più bassa. Infatti la Clio arrivava a 7500 giri quasi la centralina, invece la mia era tipo tarata 6300-6400 giri, scattava il limitatore. Però aveva una progressione, non lo so, io mi divertivo un bel. Adesso facciamo una saldatura, già, dammi un attimo. Vai tranquillo. Avanti, mi porto una sigaretta, e pitta un attimo, capo. Beh già. Eccoci qua. Io mi sono messo i fornelli. Ehi, andavo. Io sono andato a farmi una sigaretta, invece mi ha fatto andare in bagno. Cavolo, però non lo so, deve essere che ho mangiato quel brodo ieri. Forse era un po' piccante, ma è paccato, ma è per quello che mi fanno male le gambe e i piedi, ragazzi. Io mi sono accorto che quando sono a dolori e mangio roba tipo un po', tipo con pomodoro, peperone, cose garurosi così, ti accentua ancora di più il dolore, mi fa di sci di gabbo. Già, meno sia pure qualche fissazione, mi vai. No, quella me l'aveva detto un anziano, che mi ha detto quando uno è a dolori e mangia tipo roba con peperone o pomodoro, ha detto che ti acidisce un po' il sistema nervoso. E non lo so, magari può servire come se non può servirmi. Però adesso ieri l'ho mangiato, era buono quel brodino che mi ha fatto mamma, perché c'era un pezzo di carne di costata. Ne ho mangiato due pezzettini, però mi sembrava un bel caruruso mi baia. E cavolo, è quando mi va di chiamare, perché sembra che non lo digerisco, sembra che mi bollisce il sangue. Non mangiare il pomodoro allora. Io mi sto facendo appena di pasta, cioè sto facendo il soffritto con le vongole e mi sto bevendo del faticante bianco. Riprendo subito, aspetta. Alla grande. San Natale, a Capodanno per le signore ho preso questo aragosta frizzante. Dito per le signore, non lo so come vendi io. È buono, io quello è buono il vino, cos'è? Bianco o rosé? Bianco frizzante, aragosta frizzante, io non ne bevo vino bianco. Però questo qua già è faticante veramente. No, è buono, perché ha tipo un retrogusto di tipo grossecco, mi. Ehi, però è frizzantino. E si vara così da faticante, dai. Sì, è ultimo come vino, diciamo. Dai, da una parte è sempre meglio di cattura di gattoni, eh. Io prendevo molte volte quello rosato, perché magari a tavola, lo sai, se c'era qualcosa di pesce, allora mi bevevo un goccio di quello, basti più leggerino. Se no mi bevevo quello rosso, io sono mica puttavo. A tirare giù con bottente. Tu sempre avvino lì, è un disastro, eh? Sì, oh Giulia. E poi guarda, io come ultimamente sono in vizio di un'illusione, mi faccio solo di avvelenarsi. Cioè devo stare attento a questa mangio, perché se mangio roba calorosa che non riesco a digerire, cazzo, sto male, tocca a fare un coccodrillo, tocca a fare 3-4 vini, ma niente di tipo a stecchetto, giusto per far lavorare l'organismo, che sennò è un casino. Anche perché non ti muovi, anche perché non ti muovi, quello vuol dire tanto. C'è da controllare questa roba, già ci pazienza, ma devo controllare questa roba. Vai tranquillo, capo. Almost half-flashing, they know it's already not going to be.